Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se è direzione di tarda? C'è la guardia? No, è allora. Fagli le corna, fagli le corna, quel disgraziato. Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa: il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo. Hai capito bene? Ricordalo. Oggi per avere consenso a 360 gradi basta dire Roma fa schifo, sono tutti d'accordo. Posso in parte anche io dire la mia, visto che ci abito da 30 anni. Ma prima di essere esattamente allineati con il punto di vista di Tognazzi nell'antico film I Mostri, eravamo negli anni 60, eppure già l'atteggiamento nei confronti della cosa pubblica era ben definito. Il padre che insegna al figlio a essere un teppista, a essere un furbo, a eludere le norme, a cercare di passare avanti gli altri. Se tutti fanno così, naturalmente, poi si crea una situazione per cui realmente le città fanno schifo. Anche nelle vostre città che non siano Roma, visto la situazione romana ormai è sotto l'occhio di tutti e l'attenzione generale pubblica, Roma sia via al Giubileo, un passo importantissimo che comunque darà molti grattacapi a chi deve amministrare la città. Beh, da Roma invece nasce un'idea abbastanza nuova, singolare, perlomeno unica nel panorama nazionale: la possibilità di dare una mano, di porgere uno strumento al cittadino, di far parte delle persone che dovrebbero in qualche maniera arginare lo schifo di una città. Il sistema si chiama Io Segnalo, è un sistema che rende il cittadino responsabile e, diciamo, collaboratore, visto che il termine a qualcuno potrebbe anche essere fastidioso: il cittadino non deve essere delatore, il cittadino non deve essere un informatore. Benissimo, allora continuate a navigare nello schifo. Il sistema Io Segnalo è in funzione da prima dell'estate, da luglio, ancora una fase, diciamo, di passaggio. Mi sono iscritto anch'io proprio l'altro giorno perché avevo un problema, il solito annoso problema di trovare una macchina che occupa lo stallo riservato del figlio disabile. Ho capito che in realtà, al di là di un problema così personale, così difficoltoso, esistono un'infinità di possibilità in cui il cittadino può rendersi parte attiva nella gestione di una città. Siete d'accordo? È una strada giusta? La vedete applicabile anche nelle vostre città? Quali sono le vicende, le questioni, le cose che ogni giorno vi fanno orrore e sulle quali vorreste poter dire la vostra? Vorreste avere un canale immediato di segnalazione? 800240024. Avevo appuntamento col mio medico di base, volevo parcheggiare, ma il posto era occupato da una autovettura che non aveva all'interno alcun contrassegno disabili, e ragion per cui ritengo che la persona in questione non avesse alcun diritto ad occupare il posto che invece io avevo diritto a occupare. Allora, è stato violato un suo diritto. 800240024, chiamate pure, non soltanto da Roma ma anche da tutta Italia, per dire se avete mai avuto la tentazione di poter avere uno strumento immediato, efficiente a vostra disposizione per segnalare qualcosa che vi dava enormemente fastidio, ma non da un punto di vista semplicemente logico, perché realmente era un problema anche vostro, visto che la cosa pubblica appartiene anche a voi. Raffaele Clemente, buongiorno. Buongiorno a voi. Raffaele Clemente, ho detto comandante generale, corpo di polizia locale di Roma Capitale. Quasi due anni che sta in un posto molto in vista e anche molto, molto difficile da mantenere. Un bilancio su questi due anni? È stata una sfida importante per me, perché sono passato da un tema di sicurezza nazionale a un tema di sicurezza... Lei si occupava di antiterrorismo, crimini? Ho fatto questo ed altro, sono stato per 15 anni all'antiterrorismo, poi mi sono fatto perdonare, ho fatto 7 anni di controllo del territorio a Roma, quindi dirigevo l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che è pronto intervento alla sala operativa della Questura di Roma, e poi per 2 anni ho fatto il direttore dell'anticrimine, che sarebbe la struttura che in qualche misura fa l'anagrafe dei cattivi, quindi dei delinquenti. E non si è sentito, diciamo, declassato occuparsi poi di parcheggi, di cassonetti, di vigili urbani? È una cosa altrettanto importante, che impegna altrettanto e anche altrettanto rischioso? Sa, per alcuni aspetti è stato un seguito. Io mi sono occupato per 2 anni, facendo il direttore anticrimine, delle misure di prevenzione patrimoniali, quindi mi occupavo di ciò che fa la criminalità organizzata quando investe i proventi del narcotraffico, e lì vedevo camorristi e mafiosi che investivano in ristoranti. Sono quelle catene di ristoranti improvvisamente appaiono, si riempiono le città di pizzerie, di gelaterie, di ristoranti, non capisce come mai. Io cercavo di darmi una spiegazione, dopodiché sono passato alla polizia locale e taradà mi sono trovato davanti al, al cosiddetto tavolino selvaggio, che non dico che chiunque pratichi l'abusivismo negli spazi pubblici sia un riciclatore, ma era una norma abbastanza diciamo seguita. A Roma non ci faceva più quasi nessuno, sembrava che fosse normale, anzi ho visto gente di notte, perché il problema mi sta a cuore, con il catrame a cancellare le strisce dei parcheggi per metterci i tavolini il giorno dopo. Ma gliene incolse, perché adesso non lo fanno più. Beh, è stato molto impopolare quando ha tolto i tavolini a Piazza Navona, sembrava che avesse attentato il decoro della città. Beh, io credo che Piazza Navona sia molto meglio adesso. Se qual era la percentuale dei tavolini abusivi? Lasciamo perdere. Vabbè, diciamolo. Partiamo, vediamo quello che è adesso. Non può essere reticente. Erano molti. Io non sono reticente. Comunque erano molti. Non sono reticente. Erano molti. Le faccio un altro tipo di ragionamento. In un bar che prima aveva i tavolini abusivi, adesso non li ha più. Hanno detto ci dobbiamo chiudere adesso, licenzieremo le persone. No, ho visto le interviste. Non è quello. C'è una fotografia degli anni 50 di Piazza Navona. Questa fotografia che è esibita all'interno di questo bar, vi invito ad andarla a vedere, questo bar c'ha questa è veramente inquietante, assomiglia a quello che è adesso. Quindi ha riportato il patrimonio storico-architettonico ai suoi momenti migliori. Agli anni 50. Certo, sembra strano che nessuno se ne fosse accorto, avesse pensato prima che fosse un problema. Non lo so. Io questo è un dato che sono un poliziotto, il dato sociologico mi appartiene. A lei non interessa. No, mi interessa perché fa parte di una mia riflessione interna che è parte del ragionamento diciamo operativo. Io però parlo di quello che è il ragionamento operativo. Internamente lo so perfettamente quello che succede, però ovviamente. Ho visto che lei è proprio del mestiere. Il grande crimine organizzato si fonda anche sulla, diciamo, accettazione di questi piccoli abusivismi quotidiani cui nessuno pensa che siano gravissimi. Il mafioso è un pesce. Il pesce nuota nell'acqua. Per nuotare ha bisogno di acqua fonda, ha bisogno di muoversi eludendo le regole, perché le regole sono fatte per impedirgli di fare il mestiere suo, che è quello di fare il mafioso. Se esistono delle regole sulla fatturazione, sullo scontrino, io so esattamente quante pizze ho venduto. Se però io in qualche modo eludo lo strumento contabile, lo strumento amministrativo, lo strumento di gestione dei rifiuti, io non traccio più l'attività. Quindi è evidente che ho bisogno di un momento di indeterminatezza per meglio operare su questo tema. È importante dire che non tutti quelli che violano la legge amministrativa sono, diciamo, fanno parte della spectre, cioè sono parte assolutamente, sarebbe un favore da fare ai mafiosi questo. In realtà però una situazione anomica di massa aiuta. Quindi le sorprese che ci sono, che poi ci si accorge improvvisamente che esiste una malavita organizzata anche nella capitale d'Italia, nessuno ci credeva. Contemporaneamente vanno le serie di telefilm della banda della Magliana e viviamo delle situazioni coerenti. Perché meravigliarsi, visto che certe cose hanno lasciate così a se stesse? Se mi posso permettere, quando si trattò di processare la banda della Magliana non si parlò di mafia, perché in quell'epoca non esisteva il 416 bis, è stato evocato dopo. Oggi c'è una percezione diversa da parte degli organi investigativi, da parte della stessa magistratura, che fa una scelta investigativa molto performante. Il procuratore Pignatone è la plastica rappresentazione di quello che sto dicendo. Se prima le altre procure venivano a Roma a fare i sequestri antimafia, oggi la procura di Roma in maniera gagliarda, dal mio punto di vista, riesce a fare punti a Roma. Questa è la grande novità. E c'è una caratteristica specifica, perché visto che molti il termine fa paura, cioè perché parlate di mafia? È un'esagerazione giornalistica, è una gonfiatura giornalistica, ma se si parla di mafia a Roma ha delle caratteristiche personali, la mafia romana. No, perché è un meccanismo facile da riconoscere. Se io attraverso il timore indotto dal vincolo associativo vizio la concorrenza, devio l'attività della pubblica amministrazione, questa roba si chiama 416 bis, che è associazione mafiosa. È facile da capire. Quindi non è che bisogna inventarsi degli strumenti di analisi storica del fenomeno mafioso per definire la mafia romana. Ci sono dei comportamenti mafiosi a tutti gli effetti. Chi li mette in atto è un mafioso. È un mafioso. Esattamente. È facile, facile. Ecco, vediamo. Io sono partito, abbiamo fatto subito una digressione, però era importante. Io segnalo, come le è venuto in mente, io segnalo che è un sistema che anche lì, diciamo, il sostrato leggermente mafioso che ha ogni italiano, e lo dico prendendomi la responsabilità, porta a dire ma come, il cittadino diventa poliziotto, andiamo verso uno stato che il cittadino sorveglia il cittadino. Come ci difendiamo, come ci si difende da questa accusa? Cos'è io segnalo innanzitutto? Allora, voglio strocizzare sta storia, perché altrimenti non ci capiamo. Allora, uno, è dal 1968 che esiste il cosiddetto il 113. Chiamate la polizia. È dal 1968 che le istituzioni chiedono ai cittadini di segnalare quello che accade, con uno strumento che erano i sistemi di pronto intervento, prima il 113 e poi il 112. Siamo nel 2015 e ancora c'è chi sostiene che interloquire con le forze di polizia è qualcosa di discutibile. Sì, ma chi è che chiama infame questo tipo di atteggiamento, se non il malavitoso? Sei un infame, se vedo uno che ruba una macchina e chiamo il poliziotto, sei un infame, perché lo denunci? Soltanto chi è stato in galera o chi traffica i malavitosi dice questo. A me non verrebbe in mente. No, io non sono un sociologo, è lei che lo dice. Beh, però conosce il linguaggio, il gergo. Certamente sì. Però questo, il gergo paramafioso, paradelinquenziale, viene spesso, diciamo, declinato da chi mafioso o delinquente in realtà non è, chi fa la voce grossa, chi si imbranca in una mentalità, diciamo, prevalente in alcuni ambienti. Però Esiste quest'area intermedia, però vai dal carrozziere che sa che c'ha i pezzi, che li prende da qualche parte, vai nel ristorante che sa che comunque, anche se non ti chiede la fattura, t'aggiusti, c'hai un problema, chiami l'amico che te lo risolve. Sì, su questo siete tutti un po' complici. Non lo so questo, però io non faccio né sacerdote né tantomeno faccio il sociologo, faccio il poliziotto, e queste sono categorie sociologiche che il poliziotto deve mantenere internamente, altrimenti fa il tuttologo. Non deve parlarne. No, ne può pure parlare, però. Allora si inventa io segnalo. Allora dà a questa roba uno sfogo positivo. Allora, io sono stato direttore del 113 per 7 anni e ogni tanto che facevo? Mi mettevo le cuffie e rispondevo a chi chiamava al 113, e quindi c'era la persona colta da panico, quello che voleva sentire la voce amica, c'era di tutto e di più. Meno crimini. Prego? Meno che crimini. Anche crimini, certo. Io per esempio ho sentito in diretta un omicidio, poi mi sono posato le cuffie e sono uscito. Come è accaduto? È un ragazzino che aveva ammazzato i genitori. Ma ha chiamato, dice, ho ammazzato i genitori. No, perché il 118, cioè c'è tutta una storia comunque. Alla fine l'abbiamo trovato su un tetto, l'abbiamo fatto arrendere. Ma quella è un'altra storia. I genitori erano morti. Sì, mamma e papà erano morti. Ma lasciamo perdere, questa è un'altra storia. Per cui dentro questo canale d'emergenza entra di tutto. C'è un effetto cattedrale pazzesco. Per cui per fronteggiare questo flusso telefonico pazzesco tu devi avere una linea di lavorazione, un filtro, diciamo, un filtro pazzesco. Allora io mi sono sempre ho sempre sognato un sistema per cui qualcuno in tempo reale compilasse la scheda. Certo, non si può fare su un evento traumatico, ma sulle cose più semplici è possibile. Io mi sono sempre chiesto. La scheda sarebbe il primo verbale che viene fatto quando uno va a denunciare qualcosa, una cosa del genere. Anche così. Poi la polizia nel corso degli anni ha sviluppato anche una sorta di verbale precompilato con il sistema MIP. Già anche quello mi ha un po' guidato, diciamo, in questi idee. L'informatica e l'evoluzione della rete, internet, i social network ci stanno aiutando a mettere a punto questo sistema. No, fanno una cosa diversa. ci mettono la pistola in testa e ci dicono vai in quella direzione, perché se noi facciamo un riferimento e facciamo un rapido calcolo, vediamo che sempre di più noi parliamo per linguaggi strutturati e per linguaggi digitali, sempre meno con la fonia. Ma è quello che si è inventato il comandante su Twitter. Io tante volte l'ho anche cercato quando c'avevo dei problemi. Certo. Rispondeva su Twitter direttamente. Assolutamente lo faccio. È successo, cioè, la cosa, rispondeva lei direttamente su Twitter. Ma lo faccio, ma non è un problema. Ecco, però, partiamo, io segnalo. Come funziona innanzitutto? Sì, lo diciamo prima. Semplice. Della prima pausa. Adesso vi dico come funziona questa roba. Io segnalo, è parte integrante dei sistemi messi a disposizione al Comune di Roma ai cittadini. Per fare questo evidentemente c'è bisogno di una gestione della privacy, c'è bisogno di tutta una gestione industriale. Se uno vuole fare bene, sì, non è possibile. Ma soprattutto se vuole rispettare il cosiddetto CAD, il codice dell'amministrazione digitale. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di avere alle nostre spalle la cosiddetta strong identification, cioè significa tu ti accrediti ai sistemi informatici del Comune di Roma, in questo c'è anche io segnalo. Una volta che tu l'hai fatto, ti accrediti e puoi segnalare diverse cose. Alcune su alcune... Ecco, io comandante l'ho fatto ieri perché avevo lei ospite, non l'avevo mai fatto prima, non mia colpa. Ci vuole in effetti, bisogna mandare una fotocopia del documento, il codice fiscale. Sì. C'è una serie di verifiche, ma non è come iscriversi a Twitter o a Facebook, ci vuole 30 secondi. Bisogna aspettare, mandare un fax, aspettare la risposta. Certo. Solo oggi io posso operare col sistema da ieri sera. Sì. Però hanno tutto di me, nel senso ogni cosa che segnalo io è innegabile che ne risponda io responsabilmente. Sì. Ma è giusto così? Assolutamente sì. È ovvio che noi facciamo una scelta che è industriale. Se io avessi dovuto gestire da solo, quindi con un sistema diciamo di identificazioni più smart, più leggero, avrei dovuto mettere al servizio di questa organizzazione una marea di personale e avrei sostanzialmente perso l'obiettivo. Se poi su Twitter chiunque può mandare qualunque cosa. Il problema è anche essere disinformati, essere bombardati. Ci è capitato di, per esempio, in un giorno di cancellare 4.000 segnalazioni di bannarli perché erano un bombing, cioè sostanzialmente hanno cercato di distruggere il sistema attraverso dei hanno fatto una roba con un robot. Io segnalo, cioè hanno provato è il servizio Twitter. Il servizio Twitter. Là abbiamo capito che potevamo essere aggredibili. Sì, perché non lo gestite, ci vuole un sistema proprietario, se no come fai? Esatto, ci siamo dotati. La cosa carina di questa la novità. Basta uno che gli stia sulle scatole il comandante, ci sono dei bot, si scaricano dalla rete, ti arrivano 100.000 tweet in un secondo. E cosa fai? Volevano fare questo. Detto questo, la parte interessante di tutta questa storia è che il cittadino segnala attraverso il suo smartphone e la scheda, la stringa di dati così com'è, finisce sullo schermo dell'operatore. Non c'è mediazione telefonica, non c'è mediazione di digitalizzazione e c'è una cosa semplice: l'accesso del cittadino al tempo reale. Quindi il cittadino è come se fosse in piedi davanti a un funzionario di polizia che lo sta a ascoltare. Fermiamoci solo un istante, dobbiamo mandare la pubblicità. 800 24 00 24. Vediamo se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, ha provato questo sistema o ha un suo punto di vista riguardo questo sistema di partecipazione diretta alla gestione sia dell'ordine pubblico ma anche di altre questioni di una città. Poi entreremo nello specifico tra un istante. Log. Cronache meridiane. Buongiorno Nicoletti, volevo dire che gli automobilisti italiani sono i più indisciplinati e maleducati del mondo. Ciao Nicoletti, perché quando ad esempio prendiamo un mezzo pubblico e sbaglio calpestiamo i piedi di qualcuno che ci sta vicino, ci prostriamo in scuse amicamente di varia natura e invece tra un'auto e un'auto, quindi a 2 mm di lamina di spessore, ci si manda a fanculo con una facilità incredibile. 800 24 0024. Siamo qui con ospite Raffaele Clemente, comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che ci racconta il suo excursus personale e anche professionale, per cui è arrivato all'idea che Roma abbia bisogno di un sistema di segnalazione chiamato Io Segnalo, che su certe attività diciamo di disturbo a quella che è la corretta gestione della città, anche il cittadino può partecipare. Tratto un sistema protetto, un sistema che identifica il cittadino, un sistema a prova di intrusione. Però sentiamo prima qualche altra telefonata che viene da altre parti d'Italia. Siccome ho detto che volevo un quadro nazionale rispetto all'idea che l'attenzione individuale e responsabile di un cittadino possa collaborare alla gestione di una città. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Se volete vi racconto quanto accade davanti a casa mia da anni. Dove abita lei? Io abito a San Donato Milanese. Sì. Bene, io abito di fianco a un asilo, davanti all'asilo vi è una strada a doppia corsia e con dei parcheggi, e per 2 ore al giorno all'ingresso e all'uscita dall'asilo una delle due corsie viene invasa dalle macchine, mentre le macchine vengono messe dappertutto. Mamma e papà che lascia la macchina in seconda fila con il lampeggiatore vanno dentro, poi si fermano a parlare con la maestra, col bidello, guardano il disegno. Sì, esatto, però l'unico problema è che le macchine le trovi dappertutto e a me è capitato un paio di volte di dover frenare improvvisamente perché i bambini in realtà erano tra le macchine ed è pericoloso. Però non vorrei avere un problema, quindi mi sono preoccupato di parlarne col capo dei vigili. Per 2 volte la risposta è stata sempre: ma i problemi sono altri, comunque io non ho macchina a sufficienza. Ne ho parlato personalmente col sindaco, non c'è stata nessuna risposta. Si è fatta una petizione al sindaco, non c'è stata nessuna risposta. Evidentemente non è elettoralmente corretto sentirsi presi per il naso dai vigili in questa maniera, cioè da chi dovrebbe tutelare il codice della strada e farlo rispettare. Guarda caso, quando poi metti le macchine in divieto di sosta per 2 minuti perché hai bisogno tu, allora il vigile interviene. Vabbè, quindi non c'è problema. Non metta in campo il fatto personale, ha avuto una sua situazione avventurosa. Ovviamente. Riccardo, sentiamo Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno, io sto a Roma. Sì. E quello che volevo dire è che anche senza il sistema Io Segnalo, io da sempre provo a fare delle segnalazioni di vario genere. Il risultato è che raramente riesco a parlare con la centrale dei vigili perché non rispondono quasi mai, e quando riesco a parlare con qualcuno comunque non ottengo nulla, perché la risposta è sempre non abbiamo pattuglie, sono impegnate da un'altra parte e così via. La cosa paradossale però è che spesso le cose che io cerco di segnalare sono arcinote, perché avvengono magari a pochi passi da uno dei comandi dei vigili urbani. Allora Riccardo, lei ha diciamo sintetizzato quella che è la prima possibile opposizione o diciamo risposta a quello che stiamo dicendo adesso. Vediamo allora con il comandante Raffaele Clemente. Allora, la situazione di Massimo San Donato Milanese è una situazione tipica, avviene nella maggior parte delle scuole italiane, che nell'ora di punta ci sono le macchine in doppia fila, e l'ascoltatore dice i sistemi tradizionali di chiamare la centrale, che avrà un numero penso esagerato di telefonate ogni giorno, serve a poco. Di fronte a queste due realtà, ecco, Io Segnalo cosa dovrebbe cambiare? Succede che il signore fa la sua segnalazione, non c'è un operatore che media, quindi non ho questo, non ho quello. L'operatore non deve dire non ho questo, non deve prendere la segnalazione, punto e basta. È il coordinatore che decide se c'è o non c'è la risorsa. In ogni caso, se lui dovesse utilizzare questo segnale, avrebbe il numero di protocollo e una traccia certa della richiesta di intervento. Quindi c'è. E non solo, ma non dovrebbe aspettare coda telefonica, perché avrebbe un accesso diretto al sistema informatico di sala. Quindi ovvio proprio il fatto della telefonata personale, che ti risponde la persona quando può, ti dice non so, adesso vedo. Io Segnalo serve proprio per bypassare questo sistema. Sì. Lui praticamente, se non so cosa volesse segnalare, ma facciamo un'ipotesi, caduta rami, lui fa la sua segnalazione e quella arriva direttamente nello schermo dell'operatore, punto. Fine. Il segnalatore ha una sua tracciabilità del fatto che ha fatto la segnalazione? Sì, perché ha un numero di protocollo e ha lo stato della segnalazione. Io può sempre dire l'ho segnalato il giorno tale, certo, all'ora tale, non poi solo. Dopo è un problema dei vigili. Se no, è un problema mio, nel senso che io posso fare un controllo di qualità agevole, nel senso che mi vedo queste categorie e vedo... Ecco, le diciamo le categorie, comandante Clemente, così facciamo capire, sennò diventa astratto. Noi dividiamo gli interventi in due grandi categorie. Una categoria di pronto intervento, in cui noi ci sforziamo di dare una risposta immediata, e poi c'è una categoria di pianificazione. Per esempio, c'è la doppia fila in una strada. Noi sappiamo perfettamente dove, come e quando, ma questa segnalazione ci serve per pianificare i servizi di repressione. Noi abbiamo un sistema che si chiama Street Control, dove laddove noi vediamo che c'è una recrudescenza del fenomeno o una situazione di aggravamento, oppure vediamo che c'è in relazione un risentimento di traffico significativo, noi concentriamo la nostra attività preventiva proprio esattamente in quel punto. Voi non avete la famosa mitragliatrice che passa e fa le multe a tutti, quella lì? È quella lì, sì, se la vuole chiamare mitragliatrice. È la mitragliatrice, uno passa e mitraglia e fa tutte le multe in fila. Non è esattamente così, però serve a fare delle sanzioni in termini sequenziali, cioè io passo... Uno sterminio di massa. No, non esageriamo. Vabbè, lo dico per dire. Adesso le racconto una storia, sì, di sterminio di massa, sì, così gliela servo subito. Noi praticamente questo street non serve solo a fare la multa. Ma come funziona? C'è una macchina con una telecamera che filma e poi fa... Ha presente quello che fa la ZTL oppure quello, sì, che fanno le telecamere che sono sull'autostrada? Legge le targhe. Oggettivamente questa lettura viene messa in connessione al tempo e al luogo dove questa roba viene... L'operatore seleziona il tipo di violazione e stai bene così, cioè è finita. Si risparmia personale. Certo, però. Perché non abbiamo... Mette uno in bicicletta con questa cosa, passa lì e passa... Teoricamente sì, ma io invece le voglio raccontare una storia diversa, perché sennò rimaniamo sull'equivoco della mitraglietta. Noi facciamo da quest'estate dei posti di controllo digitalizzati. Cosa facciamo? Mettiamo i birilli sulla strada, le macchine si incolonnano all'interno di questo percorso obbligato, c'è lo street control che legge le targhe e chiede la motorizzazione. Questo signore ha fatto la revisione? Questo signore ha l'assicurazione a posto? È diabolico, è diabolico. Per questo volevo parlare qualcosa di diabolico, io l'ho appena accennato, e abbiamo scoperto che dal 6 all'8% delle macchine non stavano a posto, erano segnalate come scoperte da o assicurazione poche o mancata revisione tante, per cui il nostro problema era sanzionare tutte quelle che passavano, non riuscivamo a smaltire tutto quello che ci passava. Però è un fatto che abbiamo visto sperimentalmente che in alcune zone di Roma dove facciamo questi posti di controllo c'erano tantissime macchine non revisionate. Lei dice il vigile o poliziotto non deve fare indagini sociologiche, ma dei dati sulla percentuale di disattenzione alle revisioni delle macchine è un dato importante. Allora la mettiamo diversamente. È un dato importante. La mettiamo diversamente. Io mi offro come, diciamo, marker sociologico, poi il sociologo lo fa qualcun altro. Okay? I dati però li state elaborando. Certo. Se io faccio sostanzialmente un servizio di autovelox e vedo che c'è una percentuale di violazione fissa dal 5 all'8%, vuol dire qualcosa. Quindi il sociologo, se vuole, viene da me e dice Capo Clemente, ma a Roma quando lei sta fa il servizio di autovelox, che percentuale di macchine vanno oltre il limite di velocità? E io le dico tranquillamente dal 5 all'8%. Pensavo peggio, onestamente. Perché noi ci rendiamo visibili. Ah, perché e non lo facciamo alla traditora. Altra cosa, tra l'altro non si può con l'autovelox, no, nascosti. No. Sì, si può. Non si può, non lo voglio fare, perché altrimenti significa dare fare la caccia. Poi io vedo incidente stradale, anche l'incidente stradale può essere segnalato. Assolutamente sì. E vabbè, questo poi ci abbiamo sosta su passo carrabile, sosta su spazio riservato ai disabili, interveniamo su questi, rumori molesti o schiamazzi, lo facciamo. La buca, caduta rami come abbiamo detto, la segnaletica danneggiata. Se mi dicono guarda che c'è un segnale abbattuto, io mi muovo subito perché quello è pericoloso. Questo fa parte di quelli, diciamo, di pronto intervento. Sì, sì. Semaforo non funzionante, sosta su area pedonale, noi abbiamo dei servizi specifici. sosta sul marciapiede e la cosiddetta voragine, la buca pericolosa. Queste sono cose su cui noi interveniamo sempre. È evidente che se io faccio un servizio di segnalazione telematica, devo dire alle persone con cui interloquisco, su questo faccio il pronto intervento, sulle altre cose mi pianifico. Ecco, per capire bene come funziona, allora, sosta sulla rampa pedonale o sulle strisce è una cosa che si vede all'ordine del giorno, uno si arrabbia, dice, allora, che civiltà, io posso dirle, in alcune aree vedo ormai delle macchine hanno capito che quello è il loro parcheggio personale, da sei mesi c'è la stessa macchina, la stessa ora, sulla stessa rampa. Se io la segnalo anche la targa o segnalo semplicemente che c'è una macchina in quel modo? Lei nel campo note può dire quello che vuole. Se vuole. E se io segnalo la targa, che valore ha la mia segnalazione? È una segnalazione. E allora, se lei segnalasse un reato, la sua segnalazione avrebbe un valore come testimone. Io parlo macchina parcheggiata. No, cioè, sto spiegando. A Roma pensano sia al parcheggio delle smart, le rampe dei marciapiedi, è pieno. Vabbè, ognuno. Bisogna spiegargli che non è il parcheggio vive, fatto per le smart. Esatto, non ho capito. Poi se qualcuno non li spaventa, continueranno a mettercela. Diciamo di sì. Però consideri anche questo, che diciamo che noi nel corso degli anni, la società nel suo complesso ha detto alle persone che potevano sicuramente prendere le macchine, abbiamo riempito le città di macchine, non ne abbiamo probabilmente servite come avremmo dovuto con mezzi alternativi. Attualmente abbiamo una diciamo mobilità che è drogata di gomma e c'è poco ferro. È evidente che noi dobbiamo a questo punto cercare di cambiare l'abitudine delle persone, ma non possiamo nemmeno rendere impossibile la vita alle persone. Dobbiamo questo è chiaro. Fermiamoci solo un istante, rodare il traffico, proprio a proposito di quello che stiamo dicendo, e riprendiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800240024 ci stiamo addentrando in quelli che sono i campi di segnalazione del sistema Io Segnalo, che è in fase di evoluzione su Roma. Un sistema complesso, interessante, è una sorta di struttura parallela che sta creando rispetto alle forme tradizionali di segnalazione di qualcosa che non funziona, che dovrebbe essere legata all'efficienza. Sentiamo Silvia velocemente. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Ascolti, io volevo segnalare una anormalità. Sì, però siamo noi, io segnalo, deve iscriversi al sito Comune di Roma, se è romana. A Roma. Sì. Allora, io abito nella zona Montesacro, via Concadoro specialmente. Sì. Allora, quando hanno fatto la metropolitana, hanno fatto tutte le strisce blu. Allora, io sono di fronte al parco delle Valli. E anche lì nelle entrate del parco ci sono le strisce blu, perché non si può entrare con la macchina. Sì, ma non è Radio Roma, scusi, è una radio nazionale. Prego? Questa sì è una radio nazionale, è un problema legato al suo quartiere. Allora io voglio dire questo, per cui noi arriviamo e parcheggiamo la macchina nelle strisce blu, sì, anche in corrispondenza delle entrate del parco. Che cosa succede? Arrivano i vigili, quando li chiami non ci sono mai, ma come la macchina è parcheggiata all'altezza dell'entrata del parco, che peraltro è pedonale, sì, arrivano con il carro attrezzi e portano via le macchine, perché bene, sta in corrispondenza dell'entrata. Quando noi non posso prendere altro tempo. Allora, a qui il comandante dei vigili di Roma, dal corpo polizia locale di Roma Capitale, cioè non esattamente. Le spiega adesso esattamente cosa deve fare, invece che chiamare alle radio, perché avrà chiamato a tutte le radio possibili, Radio Tuscolo, Radio Roma International, e adesso chiama anche Radio 24. Si iscrive al servizio Io Segnalo e fa una segnalazione reale, sarà protocollata la sua segnalazione, qualcuno vedrà che interverrà, sbaglio? Credo di sì, se il problema è che... So, ci si ferma al piagnisteo e non si va altro. Non lo so, io non ho capito bene qual è il problema. Nemmeno io molto. Però voglio dire, può scrivermi al mio comando e vediamo di capire. Il problema è che noi facciamo delle rimozioni dove possiamo farle, Questo è funzionale. Oppure facciamo delle rimozioni dove teoricamente non dovremmo farlo, perché questa è una disfunzione e va. Ma qual è il punto a tendere, comandante Clemente? Che alla fine, ecco, di queste signore, cioè, comandata come esempio sociologico, ce ne sono centinaia e migliaia che strillano, si arrabbiano, telefonano alle radio, mandano i messaggi, scrivono nei siti internet, però alla fine la loro protesta non ha un dato razionale per poter intervenire. Dovrebbero avere la pazienza e la voglia di perdere 10 minuti, certo, di iscriversi a un portale, la loro segnalazione ha un senso. Sì. Questo sì, questa è l'idea, noi vorremmo dare questo tipo di opportunità. È evidente che le persone hanno bisogno di manifestare il loro scontento, il loro dissenso, questo è sacrosanto in una società avanzata. Compito di un servizio di polizia è incanalare questa voglia di partecipazione. È ovvio che io do non uno sfogatoio, ma la possibilità di dire: ho un problema qui, ora, e questo è il problema. Ecco, in questi mesi in cui il sistema sta cominciando a funzionare, poi sarà integrato, quali sono state le segnalazioni più frequenti per capire un po' la gente su cosa si è mossa? Diciamo che essenzialmente le soste irregolari tantissimo, molti veicoli abbandonati, perché loro chiaramente vedono questi veicoli lasciati in abbandono, vediamo soste sul marciapiede, le cose che più danno fastidio alla vita quotidiana. Sì, esattamente. Quello che danneggiamento delle anomalie ambientali, insediamenti abusivi, però pochi, 3,65, circolazione del veicolo in sosta su spazio riservato. Abbiamo un po' la declinazione del disordine. Questo quanto mi impegna però sul piano operativo, perché adesso queste segnalazioni, proprio perché il cittadino ha la prova di averla segnalata, in qualche maniera vanno onorate. Vi impegna molto dal punto di vista operativo? No, non abbiamo particolari. Razionalizza. Però razionalizza tanto, è ovvio, perché se io sostanzialmente, per quanto riguarda i veicoli abbandonati, ho una massa di segnalazioni, io posso prendere queste carcasse, questi veicoli, farsi un giro e portarli via tutti, ma pianificandolo in maniera assolutamente razionale, perché chiaramente io georeferenzio tutte quante le segnalazioni. Matteo, buongiorno. Buongiorno. La sua domanda. La trasmissione, io volevo domandare al comandante, presidente in Lombardia, noi abbiamo questo programma che è Where Are You, ma è soltanto esclusivo per le emergenze, e mi domandavo quanto il loro nuovo sistema invece nel Lazio fosse integrabile con le nuove centrali operative 112 di prossima attivazione. Una domanda che non si era posto. No. Le basterebbe al momento, però intanto. Lei dice tramite il 112 entrare nel sistema dei vigili di Roma, questo dice lei? No, guardi, lo so, questo è un tema che stiamo sviluppando in prefettura proprio in questi giorni. Però già basterebbe che i cittadini facciano lo sforzo di cominciare a usarlo così com'è, secondo me. Ma io non ho l'ambizione di organizzare il NUE, che sarebbe il nuovo numero unico europeo, questo è, diciamo, un problema di riferimento delle forze nazionali. Noi in questi giorni abbiamo posto un problema al tavolo della prefettura. Abbiamo detto: ragazzi, noi a Roma gestiamo circa 150 incidenti mortali all'anno, quindi credo che in qualche modo noi dovremmo integrare la nostra attività anche con il numero unico europeo. Quindi è una storia tutta da scrivere. Io mi sono posto semplicemente il problema di dare l'opportunità ai cittadini di interloquire in tempo reale con la polizia locale di Roma Capitale. Qua dice un ascoltatore, insomma, c'è un tempo andare in onda, sembra che vivete nella città ideale, viene a sorridere sentendosi cittadino romano. Aspetta, sentiamo, Kousar, come si chiama? Io mi chiamo Mario. Mario, sì. È italiano lei? Sono di origine straniero, però sono cittadino italiano. Cittadino italiano, va bene. Sì. Perché lei viene da sorridere? Perché guardando la realtà di questa città, in ogni suo angolo e ogni sua parte, mi è sembrato il discorso del comandante che viviamo in una città ideale. Ma mica ha detto che è ideale, ha detto una città incasinatissima, stiamo dando un sistema razionale perché i cittadini, invece di fare come sta facendo lei, dire che schifo e stare alla finestra, si muovano. Guardi, io ho girato un po' tutto il mondo, per la mia fortuna, alla mia età posso anche dare un giudizio. Ma noi qua viviamo. Io trovo che qui il problema fondamentale è il corporativismo di questo corpo dei vigili urbani. Apro un discorso, non è che voglio eludere la domanda, l'ho mandata proprio per far vedere che non do censura, ma stiamo parlando di una cosa in attivo, concreta, reale, da fare. Poi se vogliamo fare tutte le discussioni su quanto siano cialtroni i vigili, ma va benissimo, ma non è adesso il momento, non mi faccia perdere tempo, per favore. Vediamo l'evoluzione invece di questo sistema. Non è che voglio difendere l'ufficio i vigili, comandante, lo dico subito, però finché continueremo a ragionare stando seduti al davanzale o al baretto sul tavolino abusivo a dire che schifo, che schifo, che schifo, qua c'è un momento per cui uno può prendersi la sua fetta di responsabilità, con il suo nome, con la sua carta d'identità, può dire questa cosa non va, se ne prende anche la responsabilità della segnalazione. L'evoluzione come la vedi? Cosa sarà in futuro? Al momento noi abbiamo 5.397 utenti censiti e ogni giorno noi ne prendiamo una ventina, trentina, quindi stiamo gradualmente crescendo. È evidente che Invece che piangersi addosso cominciassero a scriversi e dicano la loro, questo sistema. Io ritengo che sia una grossa opportunità. È ovvio, ripeto, che tutte le società metropolitane hanno una pulsione di tipo hanno una forte capacità di autocriticarsi. Io ho visto per esempio qualche giorno fa una cosa che mi ha colpito tantissimo, è stata la rivolta dei barceloneti contro il turismo, cioè una città intera che sente disagio rispetto a una situazione di crescita e dice sono arrabbiato. Vabbè, noi la richiamiamo fra qualche mese, comandante, ci dirà qual è l'evoluzione anche a seguito di questa nostra strigliata conto corrente. Adesso diranno tutti che sono un venduto al Comune di Roma, però la possibilità c'è, un'occasione c'è. Adesso vediamo come vi date da fare. Alla prossima, grazie.